Ad alta voce, Maria Paiato legge Amatissima di Toni Morrison. Traduzione di Giuseppe Natale. Beloved varcò la soglia. Avrebbero dovuto sentire i suoi passi, ma non li udirono. Respiravano e bisbigliavano. Beloved li udì, subito, non appena la porta si richiuse fragorosamente dietro di lei. Sentendo sbattere la porta, Beloved fece un balzo e girò la testa in direzione dei bisbigli che provenivano da dietro le scale bianche. Fece un passo e le venne voglia di piangere. L'aveva avuta così vicina, poi ancora più vicina, ed era di gran lunga meglio della rabbia che imperava quando Seth faceva o pensava qualsiasi cosa la escludesse. Riusciva a sopportare le ore, 9 o 10, tutti i giorni meno uno, quando Seth era via, a sopportare persino le notti, quando lei era vicina, ma non in vista, dietro le pareti e le porte, sdraiata vicino a lui. Ma ora, persino il giorno su cui Beloved faceva affidamento, di cui aveva imparato disciplinatamente ad accontentarsi, si stava riducendo, frantumato dalla voglia di Seth di dedicarsi ad altre cose, più che altro a lui. Lui, che le aveva detto qualcosa che l'aveva fatta scappar via nel bosco, che l'aveva fatta parlare tra sé e sé su una roccia, lui che la teneva nascosta la notte dietro una porta, e lui che ora si era impossessato di Seth, sussurrando dietro le scale, dopo che Beloved le aveva liberato il collo ed era pronta a mettere la mano in quella della donna. Beloved si girò e uscì. Denver non era ancora arrivata, oppure era fuori da qualche parte che aspettava. Beloved andò a vedere, distratta per un attimo da un uccello, un cardinale che saltava di ramo in ramo. Seguì quella macchia color sangue che si spostava tra le foglie finché non lo perse di vista, e anche allora continuò a guardare camminando all'indietro, sperando ancora vivamente di vederlo riapparire. Infine si voltò e corse per il bosco fino al ruscello. In piedi, vicino al greto, vide il proprio riflesso nel fiume. Quando il volto di Denver si unì al suo, le due si osservarono a vicenda nell'acqua. «Sei stata tu, ti ho visto», disse Denver. «Come? Ti ho vista in faccia. Hai cercato di strozzarla. Non sono stata io. Mi hai detto che le volevi bene. Gli ho messo a posto io il collo, no? Dopo che l'hai strozzata. Io le ho baciato il collo, non l'ho strozzata. È il cerchio di ferro che l'ha strozzata. Ti ho visto». Denver afferrò con forza il braccio di Beloved. «Attenta, ragazzina», disse Beloved, e liberando il braccio corse via più veloce che poteva lungo il torrente che gorgogliava dall'altra parte del bosco. Rimasta sola, Denver si chiese se per caso si fosse sbagliata. Lei e Beloved erano in piedi a parlottare tra gli alberi mentre Seth era seduta sulla roccia. Denver sapeva che la radura era il posto dove Baby Sachs era solita predicare, ma questo avveniva quando lei era ancora una bambina, non c'era mai stata e quindi non poteva ricordarselo. Il 124 e il prato dietro la casa erano tutto il mondo che conosceva e che voleva conoscere. Un tempo aveva conosciuto dell'altro, aveva voluto conoscere dell'altro. Aveva camminato lungo il viottolo che portava a un'altra casa vera. Era rimasta fuori ad ascoltare, vicino alla finestra. L'aveva fatto 4 volte, da sola. S'era allontanata furtivamente dal 124 nel pomeriggio, quando sua madre e sua nonna allentavano la vigilanza, poco prima di cena e dopo i lavori di casa. Quell'ora vuota prima che si passasse alle occupazioni serali. Denver si era incamminata alla ricerca della casa dove andavano gli altri bambini, tranne lei. Quando la trovò, troppo timida per presentarsi alla porta davanti, si mise a sbirciare dalla finestra. Lady Jones sedeva su una sedia dallo schienale dritto. Di fronte a lei c'erano numerosi bambini seduti sul pavimento a gambe incrociate. Lady Jones aveva un libro, i bambini delle lavagne. Lady Jones parlava a voce bassa e Denver non riusciva a sentirla. I bambini ripetevano le sue parole. Denver tentò di sbirciare dentro per 4 volte. Alla quinta Lady Jones la sorprese e le disse: «Entra dalla porta davanti, Miss Denver! Questo non è uno spettacolo da poco!» Così trascorse quasi un anno intero in compagnia dei suoi coetanei e assieme a loro imparò a scrivere e a far di conto. Allora aveva 7 anni e quelle 2 ore del pomeriggio per lei erano preziose, soprattutto perché era una cosa che aveva fatto di sua iniziativa e provava piacere e stupore nel constatare il piacere e lo stupore che provocava in sua madre e nei suoi fratelli. Per 5 cent al mese Lady Jones faceva quello che i bianchi consideravano superfluo, se non illegale. Riempiva il suo salotto di bambini di colore che avevano tempo e interesse per lo studio. La moneta da 5 cent, annodata nel fazzoletto, annodato alla cintura, che portava Lady Jones, la eccitava. Lo sforzo di tenere in mano il gesso nel modo corretto per evitare di farlo stridere sulla lavagna. La V maiuscola, la I minuscola, la bellezza delle lettere che formavano il suo nome, le frasi tristi e profonde tratte dalla Bibbia che Lady Jones usava come libro di testo. Denver studiava tutte le mattine e si esibiva tutti i pomeriggi. Era felice al punto da non accorgersi neppure che i suoi compagni di classe la evitavano, che si inventavano delle scuse e allungavano il passo per non dover camminare in sua compagnia. Fu Nelson Lord, un ragazzino sveglio quanto lei, che la fece finita con quella storia, che con una domanda su sua madre mise per sempre fine al gesso, alla I minuscola e a tutto quanto riempiva quei pomeriggi. Quando gliel'aveva fatta, Denver avrebbe dovuto ridere o dargli uno spintone, però sul suo viso e nella sua voce non c'era alcuna traccia di cattiveria, solo curiosità. Ma quella cosa che sentì balzar fuori all'improvviso era una cosa che s'era depositata in lei da molto tempo. Non tornò mai più. Il secondo giorno Seth le chiese come mai non ci andava. Denver non rispose. Era troppo impaurita per riuscire a ripetere ai suoi fratelli o a chiunque altro la domanda di Nelson Lord, perché attorno alla cosa che aveva sentito balzar fuori si erano raccolte certe emozioni strane e terrificanti sul conto di sua madre. Più avanti, dopo la morte di Baby Sax, non si meravigliò affatto della fuga di Howard e di Buglar. Non era d'accordo con Seth sul fatto che fossero fuggiti a causa del fantasma. Se era quello il motivo, perché ci avevano messo così tanto? Ci avevano vissuto insieme tanto quanto lei? Però, se Nelson Lord aveva ragione, allora non c'era da stupirsi se i suoi fratelli erano scontrosi o se stavano via da casa il più a lungo possibile. Intanto, i sogni terribili e incontrollati su Seth trovarono uno sfogo nell'attenzione assoluta che Denver cominciò a rivolgere al fantasma della bambina. Prima di Nelson Lord si era scarsamente interessata ai suoi trascorsi. La paziente sopportazione di sua madre e di sua nonna l'avevano resa indifferente alla sua presenza. Poi il fantasma cominciò a irritarla, a stancarla con le sue cattiverie. Fu allora che decise di seguire i bambini alla casa scuola di Lady Jones. Il fantasma le riservava tutta la rabbia, l'amore e la paura di cui lei non sapeva che fare. Anche quando, prendendo il coraggio a 2 mani, ripeté la stessa domanda di Nelson Lord, non riuscì a sentire la risposta di Seth, né le parole di Baby Sax, né altro. Per 2 anni si addentrò in un silenzio troppo fitto per essere penetrato, ma che dava ai suoi occhi un potere tale che lei stentava a credere. Per esempio, riusciva a vedere le narici di un passero fermo su un ramo 20 metri sopra la sua testa. Per 2 anni non sentì niente e poi sentì come il rombo di un tuono su per le scale. Baby Sax pensò che fosse Here Boy che si intrufolava col suo passo vellutato nei posti dove non era mai stato prima. Seth pensò fosse la palla di caucciù con cui giocavano i ragazzi, che rimbalzava giù per le scale. «Quel maledetto cane è uscito fuori di testa!» gridò Baby Sax. «È sulla veranda», disse Seth. «Lo puoi vedere da te». «Beh, e allora che cos'è questo rumore?» Seth richiuse violentemente il coperchio della stufa. «Baglar! Baglar! Ti ho detto 1000 volte di non giocare qua dentro con la palla!» Alzò lo sguardo e in cima alle scale bianche vide Denver. Stava cercando di salire qua sopra. «Che cosa?» disse Seth, stringendo in mano la pezza arrotolata che le serviva per maneggiare il coperchio della stufa. «La bambina», disse Denver. «Non l'hai sentita?» Ora la questione era: per che cosa arrabbiarsi? Perché Denver non aveva sentito assolutamente niente? Oppure perché la bambina gattona già era all'opera come prima o più di prima? Il ritorno dell'udito di Denver, sparito solo per una risposta che non poteva sentire, riapparso per il rumore che aveva fatto sua sorella morta cercando di salire le scale, segnò un altro cambiamento nelle sorti degli inquilini del 124. Da quel momento in poi, lo spirito della bambina si caricò di rancore. Ai sospiri e agli incidenti consueti si sostituirono delle offese mirate e intenzionali. Baglar e Howard divennero sempre più insofferenti verso la compagnia delle donne di casa. E quando non erano impegnati in città in qualche lavoro saltuario, passavano il tempo in torvo rimprovero, portando nella stalla l'acqua e il mangiare per le bestie. Finché il rancore non divenne così personale da farli allontanare uno dopo l'altro. Baby Sachs si sentì stanca, si mise a letto e ci rimase finché il suo vecchio, grande cuore rinunciò del tutto. Tranne quelle poche volte in cui chiedeva qualche colore, praticamente non parlò più, fino al pomeriggio dell'ultimo giorno della sua vita, quando, lasciando il letto, raggiunse la porta del soggiorno e annunciò a Seth e a Denver la lezione che aveva imparato nei suoi 60 anni di schiavitù e nei suoi 10 anni di libertà. Al mondo la sfortuna non esiste. Esiste solo l'uomo bianco. Non sanno quando è il momento di smettere, disse, e ritornò al suo letto. Tirò su la trapunta e le lasciò a meditare su quel pensiero per sempre. Poco tempo dopo, Seth e Denver cercarono di evocare il fantasma e di ragionarci, ma senza risultato. C'era voluto un uomo, Paul D., per cacciarlo via, a forza di grida, a forza di colpi, per poi prendere il suo posto. E, circo o non circo, Denver a lui preferiva sempre e comunque lo spirito maligno della bambina. Durante i primi giorni in cui Paul D. aveva cominciato a vivere lì, Denver se ne stava nel suo capanno color smeraldo più a lungo che poteva, solitaria come una montagna e quasi altrettanto grande, pensando che tutti avevano qualcosa, tranne lei, pensando che le veniva persino negata la compagnia di un fantasma. Perciò, quando scorse il vestito nero e sotto le due scarpe slacciate, ebbe un fremito di segreta gratitudine. Qualunque fosse il suo potere, e comunque lo usasse, Beloved era sua. Denver era preoccupata perché, secondo lei, Beloved progettava di fare del male a sua madre. Però lei si sentiva impotente a ostacolarla, tanto era smisurato il suo bisogno di amare qualcuno. Lo spettacolo a cui aveva assistito alla radura la faceva vergognare perché, se avesse dovuto scegliere tra Seth e Beloved, non avrebbe avuto la minima esitazione. Andando verso il fiume, oltre la sua casa di cespugli verdi, Denver si chiese che cosa sarebbe successo se Beloved avesse deciso realmente di soffocare sua madre. L'avrebbe lasciata fare. Omicidio, così aveva detto Nelson Lord. Tua madre non l'hanno messa dentro per omicidio. Non c'eri anche tu quando l'hanno messa dentro. Era quel secondo quesito che le aveva impedito per così tanto tempo di porre a Seth il primo. La cosa che aveva sentito balzar fuori si era rannicchiata in un posto proprio così. Il buio, una pietra e qualcos'altro che si muoveva da solo. Aveva preferito diventare sorda piuttosto che ascoltare la risposta e, come le piccole belle di notte che cercavano apertamente la luce del sole e poi si richiudevano quando questa svaniva, Denver si mise di guardia aspettando la bambina e si disinteressò di tutto il resto. finché non arrivò Paul D. Però il danno che lui aveva provocato era stato vanificato dalla miracolosa resurrezione di Beloved. Appena un po' più avanti, sulla sponda del torrente, Denver vide la sagoma di Beloved, scalza, in acqua, mentre alzava la gonna nera sopra i polpacci, la testa magnifica abbassata, rapita da qualcosa. Strizzando gli occhi per nascondere le lacrime, Denver le si avvicinò, sperando in una parola, in un segno di perdono. Si tolse le scarpe e raggiunse Beloved in acqua. Le ci volle un po' prima di riuscire a distogliere lo sguardo dallo spettacolo di quella testa, per vedere che cosa Beloved stesse fissando con tanta attenzione. Una tartaruga. Avanzava piano piano lungo la sponda del fiume, girò e prese a salire verso la terraferma. Dietro, a non molta distanza, ce n'era un'altra che si avvicinava nella stessa direzione. Quattro piastre sotto una ciotola sospesa, immobile. Dietro di lei, nel prato, l'altra avanzava veloce, veloce per montarla. La forza incrollabile di lui, mentre affondava le zampe vicino al dorso di lei. I colli che si avvinghiavano stretti, quello di lei si allungava in su mentre quello di lui si abbassava. Il tac-tac delle teste che si toccavano. Non c'era altezza che il collo bramoso di lei non potesse raggiungere. Si allungava verso quell'altro come un dito, avventurandosi al di fuori della ciotola, rischiando tutto pur di riuscire a toccargli il muso. La gravità degli scudi che, cozzando, si opponevano e si facevano gioco degli sforzi delle due teste fluttuanti che si sfioravano. Beloved lasciò andare la gonna, che ricadde tutt'attorno. Nell'acqua l'orlo si fece più scuro. Lei lo stava mandando via. Non nel modo in cui lui aveva sbattuto via lo spirito della bambina, a forza di botte, di urla, finestre rotte, barattoli di marmellata rovesciati a terra in un mucchio. Non di meno lo stava mandando via. E Paul D non sapeva come impedirlo, perché sembrava fosse lui stesso a volerlo. Impercettibilmente, con lucida razionalità, era lui che se ne stava andando dal 124. L'inizio fu assai semplice. Un giorno, dopo cena, si sedette sulla sedia a dondolo vicino alla stufa, stanco morto, stremato dal lavoro sul fiume, e si addormentò. Si risvegliò al rumore dei passi di Seth che scendeva le scale bianche per preparare la colazione. «Credevo fossi fuori da qualche parte», disse lei. Paul D emise un gemito, sorpreso di ritrovarsi esattamente nella stessa posizione in cui era l'ultima volta che aveva gli occhi aperti. «Non mi dirai che ho dormito su questa sedia tutta la notte?» Seth rise. «Io? A te non dico nemmeno una parola». «Perché non mi hai svegliato?» «L'ho fatto. T'ho chiamato 2 o 3 volte. Verso mezzanotte ci ho rinunciato. Poi credevo che fossi fuori da qualche parte». Paul D si alzò, aspettandosi di sentire mal di schiena. Invece niente. Non uno scricchiolio o una giuntura rigida. Anzi, si sentiva riposato. «Certe volte è così», pensò. «Ci sono dei posti dove si dorme bene. La base di certi alberi qui e là, un pontile, una panchina, una volta una barca a remi, di solito un covone di fieno, non sempre il letto, e ora qui, una sedia a dondolo». Il che era strano, perché fino ad allora il mobilio era stato il posto peggiore dove farsi una bella dormita. Ripeté la cosa la sera dopo e la sera dopo ancora. Era abituato a far l'amore con Seth più o meno ogni giorno e, per evitare il turbamento che gli procurava la radiosità di Beloved, si faceva ancora il dovere di prenderla il mattino in camera o di stare con lei dopo cena. Però trovava il modo e il pretesto per passare la maggior parte della notte sulla sedia a dondolo. Diceva a se stesso che doveva trattarsi della schiena, Aveva bisogno di appoggiarla contro qualcosa di duro per qualche acciacco rimediato in Georgia quando dormiva nel cubicolo. Andò avanti così e sarebbe potuto continuare così per sempre. Se non che una sera, dopo cena, dopo set, scese di sotto, si sedette sulla sedia a dondolo e si accorse di non voler essere lì. Si alzò e si rese conto di non aver voglia neppure di andare di sopra. Irritato, poiché desiderava riposare, aprì la porta della stanza di Baby Sucks e si lasciò cadere sul letto dove era morta la vecchia. La cosa si risolse così, almeno sembrava. Quella divenne la sua stanza e Seth non trovò nulla da obiettare. Il suo letto matrimoniale per 18 anni era stato occupato da una persona sola, prima che Paul D si rifacesse vivo. E forse era meglio così, con le ragazze in casa e lui che non era il suo vero marito. A ogni modo, visto che non c'era nessun calo nei suoi appetiti prima di colazione o dopo cena, Paul D non la sentì mai lamentarsi. Andò avanti così e sarebbe potuto continuare così, per sempre. Se non che una sera, dopo cena, dopo set, scese di sotto, si sdraiò sul letto di Baby Sucks e si accorse di non voler essere lì. Credeva che la casa gli fosse venuta a noia, di provare quella rabbia inesorabile che gli uomini provano a volte quando la casa di una donna comincia a tenerli legati, quando vogliono urlare, spaccare qualcosa o almeno scappar via. Sapeva già tutto, lo aveva provato un sacco di volte, per esempio in casa della tessitrice del Delaware. Però associava sempre quella noia con la donna che viveva nella casa. Questo nervosismo non aveva niente a che vedere con quella donna che lui amava ogni giorno un po' di più. Le sue mani nella verdura, la sua bocca, quando inumidiva il capo del filo prima di infilarlo nel lago, o quando lo mordicchiava per spezzarlo dopo aver finito di cucire, il sangue che le saliva agli occhi quando difendeva da un insulto le due ragazze, Beloved ora era sua, o qualsiasi altra donna di colore. Inoltre, in quel suo attacco di nausea, non c'era nessuna rabbia, nessun senso di soffocamento, nessun desiderio di essere altrove. Semplicemente non poteva. Non voleva dormire di sopra o sulla sedia a dondolo o, come ora, nel letto di Baby Sucks. Così si trasferì nel ripostiglio. Andò avanti così e sarebbe potuto andare avanti così per sempre, se non che una sera, dopo cena, dopo set, si distese sul pagliericcio del ripostiglio e si accorse di non voler essere lì. Poi fu la volta della ghiacciaia e fu lì, una volta separato dall'edificio principale del 124, rannicchiato in cima a due sacchi di juta pieni di patate, mentre osservava una latta di lardo, che si accorse di non essere stato lui a volersene andare via. Non era lui a essere ansioso. In realtà era stato circuito. Così si mise ad aspettare. Andava a trovare Seth al mattino. La notte andava a dormire nella ghiacciaia e aspettava. Poi lei arrivò e a Paul D venne voglia di picchiarla. Nell'Ohio i cambi di stagione sono spettacolari. Ogni stagione entra in scena come se fosse una prima donna, convinta che la sua esibizione sia la ragione per cui è popolato il mondo. Quando Paul D era stato costretto a lasciare il 124 per la ghiacciaia sul retro della casa, l'uscita di scena dell'estate era stata salutata dai fischi e l'autunno, con le sue boccette color sangue e oro, riscuoteva ora l'attenzione generale. Persino la sera, quando ci sarebbe dovuto essere un intervallo ristoratore, non c'era, poiché le voci del paesaggio morente risuonavano forti e insistenti. Paul D si proteggeva dal freddo imbottendosi di sopra e di sotto con la carta di giornale per compensare un po' la coperta leggera. Ma alle notti fredde non ci pensava neanche. Quando sentì la porta aprirsi dietro di lui, si rifiutò di voltarsi a guardare. «Che cosa ci fai qui? Che cosa ci fai?» Avrebbe dovuto sentire il suo respiro. Voglio che mi tocchi dentro e mi chiami col mio nome. Poldi oramai non si preoccupava più della sua scatolina di tabacco. Era arrugginita e non si apriva. Così, mentre lei sollevava la gonna e voltava la testa di lato come avevano fatto le tartarughe, lui si limitò a continuare a osservare la latta di lardo inargentata dalla luce della luna e parlò con voce tranquilla. «Quando della brava gente ti prende in casa e ti tratta bene, dovresti ricambiare il bene che ti fanno. Tu no. Seth ti vuole bene quanto una figlia, questo lo sai». Mentre lui parlava, Beloved lasciò ricadere la gonna e lo guardò con occhi assenti. Fece un passo che lui non sentì e gli andò dietro, restando in piedi. «Lei non vuole bene a me come io ne voglio a lei. Io non voglio bene a nessuno, solo a lei. Allora che ci sei venuta a fare qui? Voglio che mi tocchi dentro. Tornatene in casa e vattene a dormire. Devi toccarmi dentro e devi chiamarmi col mio nome». Finché i suoi occhi erano fissi sulla latta di lardo argentata, Poldi non correva pericoli. Se avesse tremato, come la moglie di Lot, e avesse sentito il bisogno femminile di vedere la natura del peccato dietro di sé, di provare comprensione, magari per i maldicenti maledetti, o di stringerla tra le braccia senza riguardo per il rapporto che li univa, anch'egli sarebbe stato perduto. «Chiamami col mio nome». «No». «Ti prego, chiamami col mio nome. Se mi chiami col mio nome me ne vado». «Beloved». Lui lo pronunciò, ma lei non se ne andò. Gli si avvicinò con un passo che lui non udì, così come non udì il fruscio che facevano le scaglie di ruggine cadendo dalle cerniere della sua scatolina di tabacco. Così, quando il coperchio cedette, lui non se ne accorse. Si accorse invece che quando la toccò dentro stava dicendo cuore rosso, senza posa. Prima piano, poi così forte che svegliò Denver, poi si svegliò lui stesso. Cuore rosso, cuore rosso, cuore rosso. Thank you.